La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 37 secondi in diretta su Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto qui della versione in diretta o in podcast, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per proporre temi di trasmissione, critiche, domande per partecipare alla serie di trasmissione che da qualche settimana abbiamo cominciato, una o due settimane almeno ne facciamo, sul tema Italia non per giovani: chi esce per lavoro o per formazione dal nostro paese, magari ci ritorna, magari invece decide di non tornarci più, oppure chi sta qui e, consapevole del fatto, ci spiega perché sta qui. Oppure anche abbiamo avuto, e sta suscitando un grande dibattito, una lettera che ricevo, più negativo che positivo, anche eco la posizione di chi avanti degli anni è intervenuto a questi microfoni dicendo: se potessi, visto che mia figlia sta in Germania, questo era l'intervento del nostro amico catanese, rinuncerei volentieri a una parte delle pensioni retributive mie e di mia moglie se avessi la certezza che vengono indirizzate ai giovani a cui abbiamo derubato, che stiamo derubando sempre più del futuro. Devo dire la verità, la maggior parte di coloro che scrivono dicono: non siamo d'accordo. Lo sapevo, però intanto c'è una parte d'Italia, non quella che sta peggio, ma che la pensa così, paragonando ciò che aspetta la giovane generazione e ciò che invece ha ottenuto dalla mano pubblica italiana. Detto questo, di che cosa parliamo oggi? No, non parliamo almeno a quest'ora della scissione del PD, di questo parleremo a lungo, continueremo a parlarne, eccetera, eccetera, ma invece ci prendiamo una pausa di riflessione un po' più alta, se permettete. Perché l'occasione che ho oggi è quella di avere un ospite, equilibri, leggo, da appassionato della materia, mero appassionato della materia, non me ne sono perso uno in tanti anni, c'ho un'intera parete di libri allineata su questo, e l'occasione però è per parlare di Europa con lui. Perché? Perché l'occasione contingente è quello che domani il nostro ospite presenta un nuovo centro culturale europeo, si chiama Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, che è da lui diretto in quanto fondatore della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele ormai un bel po' di anni fa, e di cui è professore emerito. E questo Centro Culturale Europeo tenterà, appunto, darà vita a una serie di iniziative incardinate proprio sulla riflessione politica e filosofica, culturale, sui caratteri di questa Europa che ormai ci sfugge di mano, in cui sempre meno si immedesimano, che tutti avvertono come un vincolo intollerabile o magari come una sottomissione imposta per interessi altrui, quelli tedeschi chiaramente, e che assimilano poi a una politica anch'essa, tra virgolette, impostaci, di accoglienza indiscriminata ai migrati che viviamo come un attentato oramai alla nostra identità, al nostro equilibrio economico e occupazionale. Ecco, quindi sarà un quadro di iniziative internazionali e nazionali su tutti questi temi, e al quale sarà collegato anche un centro internazionale di ricerca per la cultura e la politica europea, che si sviluppa però anche con un centro europeo di ricerca di storia e teoria dell'immagine, quindi affiancando al centro che darà vita alle iniziative culturali anche uno specifico percorso che tenterà nella ricostruzione, nella riproposizione dei tagli di approfondimento sulla civiltà dell'immagine europea, uno dei fili rossi della nostra evoluzione culturale come continente. Allora, perché questo ospite è particolare? Perché a me colpì moltissimo oramai un certo numero di anni fa, a dire il vero, un paio di libri che scrisse, è un filosofo, il nostro ospite, che scrisse esattamente sul tema che ci ritroviamo ad, tra virgolette, esplosione in questo 2017, e di cui ci troveremo a riflettere ancora dopo la Brexit, tra 8 settimane in Francia, con il primo e il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, a giugno poi con le legislative sempre in Francia, con le elezioni olandesi prima di allora, poi con le elezioni tedesche in autunno, di cui sapete molte volte abbiamo parlato. Siamo in presenza in queste ultime 2 settimane di un grande rush, di una grande accelerazione in avanti di Schulz, il candidato a sorpresa dell'SPD nei confronti della Merkel, e chissà, perché nessuno può dirlo, anche con le elezioni italiane e quando, perché gli sviluppi in corso nel PD trovano un certo numero di parlamentari e dirigenti del PD che escono rimproverando a Renzi di voler mandare a casa Gentiloni prima del tempo nel 2018, ma a propria volta, per differenziarsi, visto che il loro gruppo che nascerà in Senato sarà decisivo per la maggioranza del governo, immagino che per differenziarsi da sinistra rispetto al PD e a Renzi dovranno creare problemi proprio al governo Gentiloni. Vedremo, non lo sappiamo. Però quei due libri che mi colpirono erano un libro del 1994, pensate quanti anni fa, e un libro del 1997. E si intitolavano, se non l'avete letto, tanto sono ristampati da Delfi, potete trovarli. Nel 1994 era La geofilosofia dell'Europa e nel 1997 L'arcipelago. E l'arcipelago, come la geofilosofia dell'Europa, riproponeva proprio un tema che in realtà nella riflessione filosofica e civile dell'Europa c'è dagli anni 60. Perché è dagli anni 60 che Émile Benveniste riscoprì questa categoria fondante del pensiero occidentale, pre-acheo, addirittura insomma greco, classico, ma prima che classico, e cioè quello della difficoltà inevitabile di far convivere nella nostra esperienza, cominciando dal nostro io, ma poi soprattutto nella nostra esperienza, nell'incontro con gli altri, due categorie, quelle dell'hospes e dell'hostis, come si dice in latino, cioè quello dell'ospite e quello del nemico. Ecco, quei due libri, a rileggerli adesso, appaiono non come apparvero allora ai loro lettori delle, per così dire, riflessioni per pochissimi appassionati alla ricostruzione della crisi della filosofia poi europea del Novecento e, come fa sempre il nostro autore, tentando di riscoprire dietro i filoni del pensiero classico per contrastare il pensiero negativo in cui esita il Novecento. No, oggi quei due libri sembrerebbero proprio scritti con un certo spirito, senza esagerare, però voglio dire con un certo spirito profetico, perché quelle categorie filosofiche e quel pensiero negativo, cioè il tentativo di riscoprire la filosofia, gli strumenti per contrastare un esito in cui ciascuno si crede irriducibile io, che diventa a quel punto nichilista nel pensiero, relativista nel pensiero, ma teso a negare ogni possibile alterità dell'altro, senza di cui non esiste poi la civiltà europea. Ecco, quella roba lì, secondo me, è alla radice di tanti fenomeni che stanno avvenendo. Hanno anche altre spiegazioni: la perdita di reddito, l'occupazione bassa, le vittime della globalizzazione, quello che volete voi, ma dietro ci sono categorie culturali. Allora, forse moltissimi l'avranno capito, forse altri no. Io adesso mi taccio, inizio a fare domande secchissime, perché l'ospite, l'autore di quei libri, come di tanti altri, è il professor Massimo Cacciari. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a lei. Corregga innanzitutto qualunque fesseria detto fino a questo. Le sono davvero grato della presentazione puntuale, precisa. Vabbè, grazie. Spero di meritarla. Ma non dica sciocchezza. A me interessa questo. Lei evidentemente non è sorpreso di quello che sta avvenendo in questi ultimi anni in Europa, perché l'aveva scritto tanto tempo prima. Però la mia domanda necessaria dal punto di vista divulgativo è: a questo punto, che è molto inoltrato secondo me, io non so se riusciranno le classi dirigenti a tenere sotto freno quello che avviene, per certi versi mi pare di no. Che cosa diavolo uno come lei immagina che sia possibile fare per evitare l'esplosione, che torniamo all'autarchia, ai dazi, alla guerra, eccetera, eccetera? Io mi auguro che rispetto a quei libri che erano scritti in un momento di speranza. Assoluto. Perché appunto la possibilità di concepire un'Europa come arcipelago in cui i distinti linguaggi si ritrovavano esattamente come l'isola di un arcipelago. L'arcipelago era un'immagine che veniva da una famosa poesia di Hölderlin, no? Che ricordava appunto l'arcipelago greco, la distinzione, anche distinzione polemica tra le diverse polis, ma poi se vuole quei momenti di festa, no? C'erano dei giorni in cui poi tutte queste realtà si ritrovavano e celebravano la loro unità, che era l'elemento fondamentale della loro stessa distinzione, perché non potevano concepirsi distinti se non in quanto anche uniti, no? Come faccio a dirmi distinto da lei se non sto in un luogo insieme? Non, fin tanto che non abbiamo scoperto gli indiani d'America, non eravamo distinti dagli indiani d'America, no? Non sapevamo che esistevano. E quindi questa idea dell'arcipelago è un'idea originaria della cultura occidentale, del logos occidentale, come dico in quei libri, anche tante volte, altre volte ho ripetuto, logos va sempre inteso secondo la sua radice, che è quella del collegare. Non hai ragione, logos, se non colleghi, se non connetti. Che cos'è l'esercizio della ragione, sia filosofico che scientifica, se non la connessione? Cosa fa gli scienziato se non connettere in una legge diversi e distinti fenomeni? Questa è la nostra ragione. Quindi una politica che contrasti il nostro logos, una politica per cui appunto i distinti stiano in una astratta separatezza, questo non lo si capisce. Una simile politica contrasta la nostra ragione, contrasta il nostro linguaggio, contrasta il linguaggio e la ragione europee. Cioè significa davvero la fine dell'Europa. Cioè, questo forse, la politicità di questo discorso forse non si avverte, quindi bisognerebbe anzitutto avvertirla. E poi comprendere la necessità dell'Europa. Io non so se sia ancora possibile l'Europa, può darsi che sia finita, può darsi che appunto questo discorso sia semplicemente un discorso di memoria. Però non è che questo va bene, finita l'Europa, no. Questo vuol dire che noi saremo inconsistenti, che noi non avremo alcun potere all'interno del mondo contemporaneo, perché l'idea di poter tornare ad una sovranità territorialmente determinata, agli staterelli, era già una utopia alla fine del XIX secolo. È la grande profezia nicciana. Nietzsche ha una pagina che io cito spesso, straordinaria, in cui grosso modo dice gli staterelli europei, e parlava della fine dell'Ottocento, cioè dove non erano staterelli, erano le grandi potenze mondiali ancora gli stati europei. Gli staterelli europei si troveranno necessariamente a dover stare insieme per ragioni economico-finanziarie e commerciali, e sarà l'unione del semplice denaro. E questo sarà la fine dell'Europa. L'Unione Europea sulla base del semplice denaro, sulla base di motivazioni semplicemente commerciali, economico-finanziarie, è la fine d'Europa. E parlo degli staterelli europei. Oggi questi sono davvero staterelli a differenza che alla fine dell'Ottocento. Come possono pensare di poter competere, di potersi armare nella competizione internazionale? E ripetendo le vecchie forme di Stato. Quindi l'Europa è necessaria per poter esistere, per poter avere una qualche potenza nel mondo contemporaneo. Altra cosa è vedere se è ancora possibile. Sì, certo. Infatti, non lo so. Anch'io devo dire, condivido il suo scetticismo, però io sono convinto che scavando su queste questioni culturali, se qualcuno ha il fegato nelle classi dirigenti continuare a farlo, perché mi pare che tutti preferiscano tacere, o quasi, purtroppo, perché l'inseguimento oramai è aperto da destra a sinistra, sopra e sotto, verso il ritorno a quella pagina di Nietzsche che diceva lei. Ma perché? Allora, io frugando gli anni del primo anteguerra, cioè gli anni dell'inizio del Novecento, c'è sempre una cosa che mi ha colpito quando la lessi la prima volta, che era George Simmel, che scrive nel 1908 una roba proprio sullo straniero, si chiama Excursus sullo straniero, e diceva: state attenti, perché lo straniero non è l'alieno, si direbbe oggi, cioè il diverso assoluto, quello che noi oggi vediamo negli immigrati quando arrivano, in parole povere, tradotto col linguaggio di oggi, ma è semplicemente chi sta insieme a noi e che è diverso da noi, l'eterogeneo. Allora io mi chiedo se, visto che la piega che abbiamo preso non è solo avercela con gli immigrati, qui torniamo a dire via i francesi, via i tedeschi, eccetera eccetera, è possibile che ciò che era chiaro agli intellettuali prima dell'esplosione della prima guerra mondiale sia tornato a essere oscuro, Cacciari? Veda, ci sono termini che vanno distinti, cioè il termine hostis non significava nemico, Per dire nemico si dice inimicus. Il termine barbaro non significava affatto nemico. I greci potevano chiamare barbaro anche il rappresentante di una civiltà addirittura che loro potevano pensare superiore. Potevano dire barbari i persiani, ma i persiani avevano un'enorme ammirazione. Di Zoroastro avevano un'enorme ammirazione, come degli egiziani. Cioè il barbaro era semplicemente il diverso da loro, con cui non era assolutamente necessario fare la guerra. Il termine barbaro in Omero, fondamento della cultura greca e non solo, non esiste, non c'è il termine barbaro. Quindi bisogna distinguere, cioè è chiaro che ci può essere anche il nemico, l'inimicus. Uno mi attacca, vuole la mia morte, vuole distruggermi, è il mio nemico. Non è che la categoria della inimicizia debba essere scomparsa. I greci dicevano extros. Quello è il nemico, non il barbaro, non il diverso da me, non quello che non parla la mia lingua. Quello non è affatto il nemico. Se uno mi attacca, anche se parla la mia stessa lingua, allora c'è la stasis, la guerra civile, io mi devo difendere se qualcuno mi attacca e vuole la mia morte. Che non è da eliminare in nome di qualche buonismo la categoria del nemico, ma confondere i piani, cioè e giungere ad un punto in cui il nemico è soltanto il diverso da me, è la fine della civiltà europea, esatto. È la fine del logos europeo. Ma poi l'abbiamo visto nell'autoritarismi sia rossi che neri. Io dico sempre discepoli rossi e neri di Feuerbach, ma insomma un po' semplificando. Però pare che ce lo siamo tutti dimenticati. Questo è il punto, ci siamo dimenticati questa tradizione poderosa del pensiero europeo che ha sempre distinto lo straniero, lo xenos, ma Zeus è xenofilo, è amico, c'è una sofia, c'è una sapienza dell'altro, c'è una sapienza dello straniero. In tutta la nostra civiltà non ci siamo mai sognati di pensare lo straniero, il diverso da noi, il barbaro come naturalmente il nemico. Come naturalmente una minaccia per noi, non è una minaccia, è un rischio, certo, ma è il rischio che io devo come dire sopportare, tollerare, ma nel senso etimologico del termine, ogni volta che faccio un'esperienza nuova di qualunque tipo essa sia. Anche quando la faccio da solo a casa mia, leggo un libro nuovo, faccio un'esperienza nuova, conosco una persona nuova, è sempre un rischio il rapporto con il nuovo. Qui ci giochiamo la nostra cultura nel senso più radicale del termine, perché questo significa che cosa? Significa la fine della curiosità, della voglia di scoperta dell'uomo europeo, che aveva certo anche un aspetto di egemonia, certo anche un aspetto di dominio, di sopraffazione. Hegel dice che l'europeo è un leone affamato, quindi certo che aveva anche questo aspetto, ma c'aveva anche l'altro aspetto, la curiosità, la voglia di scoperta, l'età della scoperta. Siamo stati noi a scoprire il globo, mica i cinesi, mica gli indiani, mica gli aztechi, mica i maya. E quindi questa idea che l'altro, che il rapporto con l'altro, che il rischio del rapporto con l'altro, della scoperta con l'altro, ridurla, declinarla in termini di inimicizia, eccetera, di estraneità nemica, è la fine della nostra ragione. Allora io vedo che molti ascoltatori dicono queste sono cazzate culturali, gli immigrati sono troppi, non li vogliamo. Allora il punto è dimenticare questo è la storia e ridurre la questione. Io non sto dicendo che non ci sono aspetti economici, che non ci sono fenomeni enormi da disciplina, non stiamo dicendo questo. Stiamo però, non fate tutti finta di non vedere che stiamo tornando indietro a un momento che abbiamo in forme diverse. Non c'è la globalizzazione di quello che volete voi, ma è un punto in cui la storia europea è già passata ed è si è rivelato un punto di non ritorno, quello in cui quando come l'anno scorso tornano i dispositivi militari alle frontiere intraeuropee, capite? Allora vuol dire che non solo non abbiamo capito niente della guerra nei Balcani, vuol dire che stiamo veramente tornando indietro. Voi se pensate che questo sia giusto, secondo me sbagliate, lo dico io, sarò in minoranza, ma finché avrò voce chiamo quelli come il professor Cacciai che lo scrivevano 20 anni fa che questo era un rischio da non correre, anzi più di 20 anni fa. Un minuto di informazione sul traffico e poi torniamo. la versione di Oscar. Allora, un altro ascoltatore mi pizzica e dice: ma come, tu sei un liberista individualista, perché fai adesso questi discorsi? No, a parte che questi discorsi li ho sempre fatti, ma vi sbagliate da questo punto di vista. C'è un Midrash del Talmud che dice, che mi ha sempre fatto ridere perché io adesso lo applico a quelli che vogliono tornare alle rette, dice: se l'uomo stampa i soldi usa un cliché, no? Però questo cliché è il cliché che si usa per tutte le monete. Noi invece, quando Dio, ovviamente stiamo parlando del Talmud, quando Dio ci ha creato e ha usato la sua immagine, però siamo tutti diversi e la diversità non sta nel colore della pelle o dei... Questo dice un Midrash del Talmud. Allora, l'individualità dell'io è un pezzo di questo ragionamento. Lo straniero noi ce l'abbiamo accampato dentro per chiunque ha una certa convinzione della complessità del proprio io, però non stiamo parlando di questo. Torniamo al professor Massimo Cacciari. C'è bisogno, secondo lei, di politici dotati anche di questi strumenti culturali? Se mi guardo intorno in Italia e in Europa mi viene da tossire, lei che dice? Ma sì, però mi permette di dire una battuta su quello che ha appena detto, perché questo piccolo esame di coscienza sarebbe molto utile, lo facessero tutti, no? Cioè, abbiamo un nome solo, non siamo molti nomi, come diceva il poeta, non ne abbiamo tanti, non siamo in costante conflitto con noi nella nostra fatica, quella di trovare una nostra strada tra tante identità. Qual è la nostra identità? Mi piacerebbe chiedere a quelli che vanno in giro blaterando di identità: ma qual è la tua identità? Ma hai mai riflettuto sulla tua identità? Sei così sicuro di essere uno solo? Ma sei sicuro di essere uno solo? Nella tua vita sei stato uno solo? Ma è possibile che non si possa appunto ragionare? Il che vuol dire che è una cosa non sempre una cosa bella e semplice essere molti, perché significa, significa cercare sempre di essere d'accordo con tanti nomi, con tante storie, con tante vicende, con tante attese, con tante speranze, eccetera, eccetera. Quindi è uno sforzo, certo che è uno sforzo, non sto dicendo, non sono affatto il buonista che dice abbracciamoci tutti. È una grande fatica, ma è una fatica inesorabile che dobbiamo cercare di compiere. Perché? Perché l'Europa attuale è un'Europa che deve comunque essere una terra di accoglienza se vuole sopravvivere. Non può andare avanti da sola, basta ragionare sui suoi tassi demografici. Ecco, quindi una certa politica, una politica, non abbracciamoci tutti, non siamo buoni, ma una politica di integrazione, di accoglienza, di rapporto con l'altro è necessaria se l'Europa vuole ancora contare nel mondo del domani. Questo è il punto fondamentale. Allora, i politici, sono dei politici che sono in grado di partire da questi ragionamenti? Ma... sì, ce ne sono, per carità. Mi dà fiducia. Ma senza dubbio, l'Europa attuale è quella che diceva Nietzsche, cioè un'Europa che trova la sua unica ragione d'essere su una dimensione di carattere tecnico, economico, eccetera, eccetera, ed è insufficiente questa, perché questa non è, diciamo, siamo realisti, manteniamoci all'interno di questa dimensione. No, non puoi mantenerti all'interno di questa dimensione, perché una dimensione tecnico, economico, finanziaria senza politica e quindi senza una cultura politica finisce come sta finendo. Ma certo, è evidente, finisce come sta finendo, perché per ragioni tecniche, per ragioni intrinseche, perché non ci può essere una moneta unica senza un governo di quella moneta. Sì, come direbbe forse Nietzsche, ma il ministro delle finanze finisce nell'Untermensch, non nell'Ubermensch. Esatto. Io adesso, siccome ce l'ho qui e lei mi deve perdonare, ma una domanda sull'attualità politica italiana gliela devo fare per forza. Ci dica cos'è, che impressione ha avuto ieri alla scissione del PD? Abbastanza drammatica, perché veda, fino a ieri poteva essere una questione di un partito che forniva uno spettacolo abbastanza triste, ma invece la frantumazione a cui ieri si è assistita, perché forse non si è colto che a questo punto Renzi, per sopravvivere, dovrà cessare di fare il Renzi, il Partito Democratico cesserà di essere il partito di Renzi, ora sarà insieme il partito di Franceschini, il partito di Orlando, il partito di Fassino, il partito di Veltroni, il partito di tutti quelli che l'hanno sostenuto, pur non essendo d'accordo con lui su niente. Quindi diventerà davvero il partito dei caminetti, eccetera, eccetera, tutto quello che Renzi ha sempre detto di detestare. Quindi ci assistiamo non a una scissione, ma a una frantumazione. Allora, la frantumazione di questo debolissimo pilastrino che finora è stato nella politica italiana negli ultimi anni il Partito Democratico significherà sicuramente sconquassi di sistema, non c'è dubbio alcuno, e in una situazione così drammatica per il paese e per l'Europa non aiuta, dice. Penso che con la legge proporzionale sarà una grande accelerazione all'identità di ciascuno a spararle più grosse, nessun vincolo di finanza pubblica, come dicevo io, la frantumazione sarà la frantumazione appunto. Comunque, sia a sinistra che a destra vedremo. Intanto ve lo ripeto, da domani parte l'iniziativa di questo centro culturale europeo Palazzo Arese Borromeo, e grazie al professor Cacciari e soprattutto di aver scritto libri che 20 anni dopo si rivelano ancora più utili di quando sono usciti. Cari ascoltatori, ogni tanto sì, una trasmissione così ci vuole, questa è la mia opinione, resto minoranza di fronte a voi tutti. Continuate con Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mino domani alle 8:20, attenti alle 2.